Eccoci qui, siamo ormai alla terza puntata del rovescio della medaglia, e la trasmissione che si occupa di approfondire quella che è stata la scena progressive italiana anni 70 con oggi siamo alla terza puntata e diamo anche il benvenuto a Proc2. Buonasera a tutte e a tutti. Ricordiamo appunto il nostro appuntamento con il prog rock italiano dalla A alla Z. Perfetto, allora prima di cominciare ricordiamo un po' il nostro sito, i nostri vari indirizzi. Proc2, che ne pensi? Diamo un po' una Allora, rinfrescata. il sito lo diciamo, ma visto che siete collegati con noi, penso che ormai l'avete imparato, è wombat.noblogs.org. Poi siamo anche su Twitter, twitter.com/radiowombatfi. E come dice la nostra collega Vladimir, se ancora vi ostinate a usare Facebook, siamo anche su Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze. E Perfetto. per suggerimenti, indicazioni, consigli, quello che volete, abbiamo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, che è postawombat@insiberia.net. Perfetto, perfetto. Allora, io vi chiedo scusa per la voce un po' rauca, sono un po' raffreddato, sono stato a vedere i Goblin live a Pompei, live in Pompei. Ok, ci danno anche l'ok che il suono sta uscendo perfetto. Ci siamo, via. Proc2, ci siamo, Ci via, ci siamo, siamo. dai. Allora, l'ultima volta vi abbiamo lasciato con un po' in sospeso con il campo di Marte, e visto che noi facciamo le promesse e le manteniamo da veri uomini d'onore, veri uomini d'onore quali siamo, e infatti Proc2 è messo anche il cravattino da uomo d'onore. Allora, vi avevamo lasciato l'ultima volta con i Campo di Marte. Allora, infatti, proprio con loro apriremo oggi i Campo di Marte. Come tanti possono, magari i fiorentini, via, o magari chi ha vissuto a Firenze o chi conosce Firenze, i Campo di Marte sono fiorentini e prendono il nome proprio da un quartiere di Firenze che è Campo di Marte. È un gruppo che si è formato nel 71 e hanno fatto un solo album, anche loro, omonimo, Campo di Marte, che è uscito nel 73, però hanno avuto un'intensa carriera live, cambiando sempre nome del gruppo fino, insomma, forse avevano crisi di identità, chi lo sa. Proc2, che boh, te che sei mezzo psicologo, come... No, ma succedeva spesso che anche le stesse formazioni cambiavano nome. E ora anche vedremo in seguito con altri gruppi, ci sono stati o dei cambiamenti totali di nome o dei piccoli cambiamenti, dei piccoli rimaneggiamenti. Non lo so sinceramente per quale motivo. Ah, forse, sai forse perché Proc2? Forse perché noleggiavano gli strumenti per non farsi poi riconoscere dal service da chi glieli noleggiava, capito? Gli davano, che ne so, il rovescio della medaglia, poi arrivavano, la serata era dei Campo di Marte, quindi così non li Come beccavano. facciamo noi? Come Una volta facciamo? diciamo prog 1, una volta prog 2, prog 3, prog 4, ora Boh, siamo no, non arrivati a si sa. prog 6, quindi. Benissimo, allora la particolarità di questo album è che uscì nel 73, come vi ricordo di nuovo, è che praticamente è composto da 7 tracce, però no, i titoli Proc2, se te vedi sul vinile che hai qui accanto a Sì. te, praticamente sono primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto tempo, ossia questi sono i pezzi, i titoli delle Ma è tracce. un po' l'idea, no, del concept album e Sì. È del rock sinfonico, no? vero, è vero. Suddiviso in movimenti, diciamo come nella musica classica, invece che dei brani singoli con una. Infatti anche dopo, se non sbaglio, Prog 27, manderemo anche dei pezzi che sono una sorta di concept tracks, ossia divisi Sì, in più settori, no? Magari lo stesso pezzo che però è parte di un filone più, che comprende 2/3 tracce, no? Sì, vengono chiamate anche suite. Ora non so di preciso quale sia la definizione precisa, però vi aggiorneremo. Vi Questo non aggiorneremo via siamo via. preparati. Perfetto, è che Prog 47 ha mangiato di nuovo i gianduiotti, c'ha di nuovo la bocca allappata. Va bene. Allora, mandiamo dei Campo Rimarte, mandiamo Quarto Tempo. trovare sui tuoi passi la tua. Ok, benissimo. Allora, questi erano i Campo di Marte da Firenze e abbiamo ascoltato quarto e sesto tempo e mixati con eleganza e professionalità da Prog 124. E allora invece il prossimo gruppo che lo lascio presentare a Prog 63 sono i Dalton, vero? Sì, allora, i Dalton, cioè prima da chiarire una cosa su questi Dalton, praticamente negli stessi anni abbiamo due formazioni con lo stesso nome di due città diverse con componenti completamente diversi, uno di Brescia mi sembra e l'altra di Bergamo. Quelli che interessano a noi sono i Dalton 2, detti così per riconoscerli, e anche loro... hanno fatto solo due album, e noi vi presentiamo questa sera il primo album del 73 che si chiama Idea d'Infinito. Vi proponiamo due brani, come diciamo siamo soliti fare. Aspetta, però Prog 48 c'è da una piccola correzione e riflessioni, due punti, Idea d'Infinito. Il nome dell'LP dell'album. Ah, è vero. Che se no non diamo credibilità, chi ci ascolta riceve. Riflessioni, Idea d'Infinito. E la prima traccia dell'album si chiama appunto Idea d'Infinito. Ah. Era questo che mi aveva tratto in inganno. Prog 39 a volte, va bene, via. E diciamo la particolarità di tutte le tracce dell'album è diciamo l'uso del flauto traverso, che palesemente si rifà un po' a Genesis, Jethro Tull, più che a Jethro Tull, con l'uso diciamo di quest'uso contemporaneamente di voce e suono del flauto, che ora comunque vi facciamo sentire. E tra l'altro c'era anche Mauro Pagani. Mauro Pagani era nei Dalton 1. Negli altri Dalton. Perfetto. Si è riscattato al volo, vedi Prog 27, si è riscattato al volo, vedi. Va bene, allora vogliamo mandare Idea d'Infinito? Mandiamo Dalton con Idea d'Infinito, tratto dall'album Riflessioni, Idea d'Infinito. We'll be right back. Ok, benissimo. Allora, Prog 29, vuoi presentarci il prossimo pezzo? Prossimo pezzo, sempre tratto dallo stesso album, si chiama Fuga e Morte, sempre dei Dalton. È dimensione lavoro. Dimensione lavoro, Dimensione si è lavoro, è fatto uno vero. scherzetto. Oggi Prog 43, oggi è particolarmente simpatico. È Oggi saltata la scaletta. non è mica il primo aprile. Vien via. Va bene, allora è dimensione lavoro. Dimensione lavoro, tratto dallo stesso album, Riflessioni, idea di infinito, i Dalton. Wow. Ok, allora abbiamo chiuso con i Dalton, con Dimensione Lavoro, e in effetti la gaffe, non gaffe di prima di Prog 6 e mezzo, era Fuga e Morte, era per presentare il prossimo gruppo, il prossimo, nonché il prossimo pezzo, che è Fuga e Morte, Sì, dei... Dede Lind. Entusiasmo, capelli strappati. Che il nostro Prog 7 ci presenterà. Prog 7 lo presenta? Ah, vabbè, ok. Allora, vabbè, questo gruppo intanto si sono formati nel 69 e la particolarità di questo gruppo è che hanno, a parte che sono considerati tra, diciamo, l'album, l'unico album, è considerato tra i migliori del genere. E la particolarità di questo LP è che praticamente ha il nome più lungo della, cioè il titolo dell'album è il più lungo di, detengono questo record, sai, il Guinness dei primati, cioè, e loro detengono il nome, il più lungo dell'album, che lo lascio dire a Prog 6 e 3 quarti. Allora, Allora, tu... il nome dell'album è Io non so da dove vengo e non so dove mai andrò. Uomo è il nome che mi han dato. Fantastico, no? Sto piangendo. Va bene, allora. Mandiamo dei Dede Lind, mandiamo Fuga e Morte, vero? Fuga e morte e subito dopo manderemo tratto dallo stesso album Cimitero di guerra. La gioia e l'allegria regna sovrana.

Ok, su grande, chiudiamo sul grande finale flautato, oserei dire pro Gotto e un quarto. Sì, flautatissimo, dai gli ilarissimi De De Lind, visto che l'ultimo pezzo era Cimitero di Guerra. Passiamo direttamente a un altro gruppo, un gruppo di giovanissimi padovani che si chiamano gli Eneide. E gli Eneide sono formati nel 1970. E gran parte del loro successo era dato dal fatto che in molti concerti facevano da spalla ai Van der Graaf Generator. E quindi gli venne offerto da un'etichetta, diciamo, abbastanza importante dell'epoca, la Trident, di registrare un album alla fine del 1972. Però questo album, non si sa per quale motivo, non è mai uscito. È stato pubblicato da alcuni componenti del gruppo nel 1990. Ha tiratura limitatissima, non so quante copie, ma In teoria dice 500 copie. una cosa proprio per gli amici e la famiglia. Oddio, Comunque. amici e famiglia prolifica, 500 copie. Si vede che a In quegli Padova. anni figliavano abbastanza, c'era ancora, si era nel secondo dopoguerra e c'era il benessere economico. Anche gli operai potevano permettersi di fare tanti figli. Che ci vuoi presentare degli Eneide, Prog 8 e un quarto? Allora, degli Eneide presentiamo la traccia Ecce Homo, Ok. tratto dall'album. Uomini umili, popoli liberi. Vai. Thank you. Ok, abbiamo chiuso anche con gli Eneide, finale molto emmondizzante, oserei dire, Prog 12, vero? Sì, quasi un Moog, un Ok, Moog o un mini Moog, come si ma usavano quanti ne sa, quante ne nelle sa. band. E a te l'onore, Prog 13, di presentare il prossimo gruppo. Il prossimo gruppo è un gruppo romano, po poco conosciuto, pochissimo conosciuto, che si chiamano gli Exploit. L'album, l'unico album, si chiama Crisi. È un album particolare perché, diciamo, il primo lato è una suite in tre movimenti che si chiama Crisi, che è anche il titolo dell'album. Mentre nel secondo lato ci sono quattro tracce di un genere un po' pop, commerciale. Però questa suite, appunto, Crisi, in tre movimenti, si distingue nel campo del prog italiano perché è un brano, un pezzo molto ben riuscito, con varie ispirazioni, ora senza esagerare, però un po' alla Emerson, Lake e Palmer. Ho esagerato? No, non si No, esagera mai no, ok. con l'esperienza musicale che abbiamo, in quanto noi di professione facciamo i critici musicali, Certo. le critiche che facciamo noi sono sempre di un livello Possiamo medio-alto, sparare anche cazzate, no? quindi, sai. Sparare qualsiasi cosa a tutti i nostri ascoltatori, che poi a quanti ascoltatori siamo? Prog 12, via! No, guarda, Guardami, non guardami c'ho subito. il contatore che è impazzito, Oh, no? cioè, Non ormai, li calcola più, no? sì, non si sa, va bene, no, rimaniamo, prima si era verso i 13.000, no, però Diciamo ora, N ascoltatori. prima di mandare gli exploit, vogliamo ricordare ancora il nostro fantastico sito, Twitter, Facebook, la mail e tutte. Certo, facciamo questa cosa più utile. Per mandare dei commenti, dei consigli utili, quello che volete, potete scrivere a postawombat@insiberia.net. Ah, proprio così, proprio Sì, fa sì. un riassunto. Perfetto. Sì, poi siamo su Twitter, siamo su Facebook, il nostro sito è wombat.noblogs.org, Va ma bene. siamo facilmente rintracciabili. Allora, Quindi che ci vuoi mandare degli exploit? mandiamo questo, diciamo, il lato A del disco, che è appunto Crisi, questa suite in tre movimenti, e ve le mandiamo, diciamo, in continuità. Thank you. Thank you. cosa cerchi, amico mio, al di là della realtà? Il tuo cuore è duro come un sasso, non hai pianto quando è morto tuo padre, di lei non ti importa nulla, credi di essere solo, credi che nessuno ti ami, e tu odi più di te stesso, e fai sì che la tua mente sconfini nella fumosa irraggiungibile realtà, che per un attimo ti sembra realtà. Nessuno ti ama, c'è qualcuno che è morto per te, non puoi pensare che se fai per un istante con una sconosciuta e conosciuto piangi per la morte di tuo padre, ama lei come te stesso, ama tutti e vedrai che ti ameranno. Sempre gli Exploit con Crisi, la terza parte di questa lunga e raffinata suite. Thank you. in your body and face. Ok, benissimo. Era per chi, per gli ultimi 6-7 mila che si sono collegati soltanto ora, diciamo, si chiedevano, accidenti che pezzone, era la fantastica Exploit. La fantastica suite degli Exploit, Crisi, e che è stata anche questa mixata con estrema professionalità. E il prossimo pezzo che andiamo il prossimo gruppo che andiamo a presentare sono i Flea, si scrive Flea, però Prog 845 mi ha detto che si pronuncia Flea. E perché? Perché questo gruppo è erano siciliani, ma poi si trasferirono a Roma e hanno fatto tre album con tre nomi diversi. Quindi c'è anche in questo caso c'è una forte crisi d'identità. Ecco, ora si capisce perché diversi componenti di tutta la scena, diversi musicisti della scena prog. Poi sono finiti tutti in gruppi sovversivi tipo Hare Krishna e sette del genere. Quindi sì, abbiamo anche un esempio lampante del chitarrista degli Area, Paolo Tofani, che tuttora sembra che sia in una comunità di Hare Krishna. Ah, ecco, notizie. Dall'autonomia gli Hare Krishna. Insomma, vabbè. Passato che strumento suonava Prog 27? Chitarra, quindi è passato dalla chitarra alla zappa al tamburello, al mestolo e a cucinare vegetariano va bene. Allora, dicevamo, ecco, piccola parentesi, perché noi bisogna dare dei cenni storici, dei retroscena, delle notizie che nessuno sa e che noi abbiamo scovato nei meandri della progressive italiana. Allora, stavamo parlando dei Flea. Allora, hanno fatto tre album con tre nomi diversi, è da qui che nasceva la famosa crisi d'identità. Il primo uscì come Flea Indoni, il secondo come Flea e il terzo infine come Etna, e col terzo album hanno voluto proprio eccedere nel campanilismo, più essendo siciliani. Allora andiamo a presentare un pezzo molto fancheggiante, oserei dire, prog 7 e un quarto, vero? Sì, questo sì, ha delle caratteristiche un po' meno prog, un po' più funk, ma comunque anche perché il primo album, c'è da dire che è uscito come Flea Indoni, on Duoni, praticamente un album omonimo, anche questo del 71, non ha tante sonorità progressive, mentre già il secondo si riesce, diciamo, il classico suono progressive è molto più accentuato. E noi del primo album andiamo a presentare A Woman of Distinction, con il fantastico inglese maccheronico, dei Flea and Honey. La pulce nel miele. A woman of distinction came up to me one day. She told me of my fortune and walked the other way. She said that I'd be losing Benissimo, abbiamo ascoltato un po' il pezzo fancheggiante Woman of Distinction e sempre vogliamo dire ecco, un'altra nota che il batterista poi alla fine dopo l'uscita del loro terzo ed ultimo album è passato ai Goblin. E questa è una nota interessante per tutti voi 17.747 ascoltatori, che la prossima puntata cominceremo dalla G e ci sarà anche un'anticipazione che è stata scelta appositamente da Prog 7 e un quarto che presenteremo dopo con la lettera G sarà una ecco no, perché a noi vi piace dirle le cose, piace dirle via, no, non teniamo questo mistero, sì, le cose come stanno, come stanno diretti proprio, vino al vino, acqua all'acqua e chi più ne ha più ne metta via, perché la prossima puntata sarà sulla lettera G e sarà datosi che la mia voce, come dicevo inizio puntata, la mia voce rauca è dovuta al fatto che sabato sono stato a vedere i Goblin live a Pompei e quindi manderemo, sarà sì con la lettera G, ma sarà abbastanza centralizzata. Sì, ora non siamo qui all'Accademia della Brusca, quindi... Anche perché c'è, se no si fa concorrenza all'altra puntata e abbiamo qui l'amministratrice delegata dell'Accademia della Brusca che si lamenta e vuole i diritti, giustamente dice, ci denuncia per, come si dice? Vilipendio alla lingua e nonché c'ha anche il brevetto, il patentino, sì, tutto. Insomma, diritti d'autore, ecco, sì. No, va bene. E quindi nulla, sempre dello stesso album, mandiamo Moon Park Woman. Thank you. Killer. Ok, benissimo. L'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato era Happy Killer, sempre del primo album uscito come Flea on the Honey. E un'altra nota che ricordiamo è che questo gruppo, i Flea on the Honey, diciamo il loro trampolino di lancio, come per tanti gruppi dell'epoca, fu il Festival Pop di Viareggio del 71, del 1971. Ti ricordi Prog 4 e mezzo? Noi nel 1971 eravamo a Viareggio proprio... a vendere il cocco in spiaggia, che si faceva. Benissimo, allora sempre dei Flea mandiamo questa è parte del secondo album, il pezzo che andremo a ascoltare è L'Angelo Timido del secondo album dei Flea on the Honey, che sono usciti invece, come dicevamo prima, il secondo album sono usciti come Flea, e l'album è del 1972, Topi o Uomini, e noi mandiamo L'Angelo Timido. Benissimo, abbiamo fatto anche quest'immersione nei Flea, con i suoi con i loro con i loro vari nomi. E per oggi abbiamo finito. Siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questa lunga diretta su Radio Wombat. E così, signori, chiamatemi in servizio d'ordine, allontanate tutti i nostri fans, perché quando si dice che si Si finisce. finisce. Oh. Anche noi abbiamo una vita al di fuori di questa radio. Abbiamo i nostri impegni, chi c'ha da spostare la macchina, chi c'ha da saccheggiare i parchimetri, abbiamo tutti i nostri impegni. Come abbiamo detto, Prog 4 e un quarto c'ha una piccola interessante anticipazione di quello che sarà la prossima puntata. Allora, la prossima puntata partiremo dalla lettera G con i Garibaldi. No, no, Garibaldi. no, no, Prog 4 e un quarto. Te mi hai corretto giustamente sui Flea, che si pronunciava Fli. Garibaldi è scritto con la Y, Gari, quindi è Garibaldi. Può essere? Garibaldi. Eh no, perché facciamo le cose Ah, è importante giuste, che si scrive con la Y. I Garibaldi. ecco. Che abbiamo anche colei che fu la promoter iniziale della tournée dei Garibaldi. Vieni a fare un saluto alla radio, via, su. Buonasera a tutti. Come si va qui? Si va di nulla. Erano emiliani i Garibaldi. Mozzavia la camicia rossa, sono rossi come gli emiliani. Ci ha rovinato tutta la trasmissione, ci ha Certo. rovinato. Veniva. Noi si vuole dare un tono di serietà, non c'è versi, no? Il rovescio della medaglia, l'unica trasmissione in cui il DJ mette la musica e se la squaglia. Noi si è scelto, quando si è fatto il contratto con la radio, si è detto, guarda, noi ci sa un sacco di vizi, dalla nicotina, ai videopoker. A guardare le vecchiette che attraversano sulle strisce, quindi noi mettiamo pezzi lunghi per far fronte a tutti i nostri vizi, a tutte le nostre dipendenze. Allora, e come dicevamo, quindi Diamo una piccola anticipazione per farla breve. I Garibaldi con il loro leader del gruppo, nonché cantante Bambi Fossati, vi facciamo ascoltare questo brano tratto dall'album Nuda e la traccia si chiama Maya Desnuda. I Garibaldi. approfittiamo per salutare anche tutti, o li salutiamo dopo? Ah, salutiamo tutti. Sì, perché io ho videopoker, ci sono già Sì, due a sì. giocare, non No, no, vorrei che mi andiamo con i svuotino. saluti e poi vi mandiamo l'ultima traccia. Chi vogliamo salutare? Prog 1, lo sai chi ti saluta? Mi saluta? Ma che, meno male, perché noi si era pensato rifare la prossima puntata in mondovisione con la telecamerina, però se Prog 4 e un quarto continua a fare sti versi, sti gesti, meglio che non ci vedete, via. Allora, Alla vai con prossima settimana. alla prossima settimana e un ciao a tutti e have a good night, buenas noches. Maha. Sei già spogliata, sei sul mio letto, sei tutta nuda. Dolce visione, dolce passione, tu sei sempre nuda. Maha. Desnuda. Passa le ore, esce il sudore, tu mi travolgi nuda. Dolce passione, dolce visione, tu sei sempre su con me. stufo di te. Non mi fai neanche bere un caffè. Cerca pure, intanto io sto correndo come Superman. Sua sex machine. Va bene così.